Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Pezia, scusa, non capisco. Trovi un positivo, chiudi la scuola. Trovi Ibrahimovic e il Milan gioca. Oh, chi lo sa? Non capisco. Spiegami. Buongiorno Simone. Volevo chiedere, nel caso dell'esame di italiano di Suarez, ma il ministro dell'università Manfredi è completamente desaparecido. Non si sa nulla di lui. Dov'è il ministro Manfredi? L'altro giorno lo abbiamo cercato, per il momento preferisce non commentare, evidentemente. Poi, signori, teniamo presente anche questo, che c'è un'inchiesta giudiziaria in corso. Può darsi anche che liberamente, forse anche giustamente, il ministro decida di attendere. Non è per assolvere la sua assenza, per carità. Sul Milan e Ibrahimovic, là immagino che abbiano una disponibilità di tamponi molto larga esattamente per queste evenienze. E quindi Ibrahimovic risulta positivo, faccio il tampone a tutta la squadra, verifico come sono messi e su quella base decido chi far giocare o chi non far giocare. Le formazioni non le fa l'allenatore, le fa il Covid, eh? Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 25 settembre, sono le 7:21 minuti. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Le prime pagine dei giornali oggi sono varie, i titoli di apertura. Libero intervista Matteo Salvini, così mi difendo in tribunale sul caso di nave Gregoretti. Salvini tra l'altro sarà nostro ospite alle 8:35. La Repubblica, che mette come titolo principale la vicenda del cardinale Becciu, che è stato rimosso per i soldi passati ai familiari, un intervento shock del Papa dopo l'inchiesta dell'Espresso. E ci fa sapere che su Salvini, però, col titolo forte di centropagina, i processi sono due. Anche i PM di Palermo sono pronti a chiedere il giudizio per il caso Open Arms. La stampa ci porta sui dossier economici del governo. La nuova IRPEF già dal 2021, la rivoluzione per il contante. Il Fatto Quotidiano sui temi di Covid. Vogliono riempire gli stadi. Fermateli. Il Giornale sul post elezioni. Centrodestra sveglia. Il Quotidiano Nazionale sullo scandalo Camici, PM Fontana sapeva. Per la verità il PD ci consegna agli immigrati, Zingaretti fiuta la debolezza grillina e prova a dettare l'agenda subito i nuovi decreti sicurezza e lo Ius Soli. Il Corriere della Sera parla del processo nei 5 Stelle, senza capi, all'Assemblea sul voto si presenta solo Crimi e Stati Generali ad ottobre. Avvenire, migranti, passo avanti, un passo indietro, è pronta la riforma dei decreti sicurezza, ma Lamorgese dice insufficiente il piano europeo. Il Manifesto apre sull'addio a Rossana Rossanda, Rossa ciao è il titolo. Il Messaggero sulla cassa integrazione negata per 500.000 di persone. E il Sole 24 Ore sulle pensioni, o meglio sulla scuola, perché c'è un rischio fuga a partire dal 2021 di professori. Ci arriveremo tra un attimo anche a questo. Sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, gli SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. E agli ascoltatori che costantemente dicono... Si parla della vicenda dei Camici di Fontana e mai della vicenda delle mascherine mai consegnate nel Lazio. Io ve lo dico sempre, quando avremo aggiornamenti su quella vicenda e quando troveremo dettagli ulteriori sui giornali, ovviamente ve li daremo come sempre abbiamo fatto. Oh, fatemi dare l'avvio a questa rassegna stampa con un po' di intonazione populista per oggi. E fatemi mettere a confronto due articoli. Il primo è a pagina 16 del Fatto Quotidiano, il secondo a pagina 4 del Messaggero. La pagina 16 del Fatto Quotidiano è un pezzo tra il divertito e l'indignato di Ilaria Proietti, che ci racconta questo. I rivoltosi dell'ex Buvette, per chi non lo sapesse, è il bar, quella specie di bar ristorantino della Camera dei Deputati. Basta con il caffè Ciofeca. Una pagina intera sulla protesta che sale per la situazione sicuramente terribile che stanno vivendo i deputati a causa della chiusura prolungata della Buvette e delle nuove regole e dei nuovi fornitori del servizio ristorazione della Camera dei Deputati. La società che ha vinto l'appalto per la ristorazione è stata formalmente diffidata dal proporre prodotti non previsti dal contratto, sia non italiani o comunque di provenienza non europea. L'incidente diplomatico si è verificato al Banco della Frutta, che in passato riservava solo primizie DOC. E quelli che vanno a comprare hanno provato a rifilare agli onorevoli commensali arance egiziane, aperte virgolette, ed erano pure cattive, commenta un deputato. Lapidario il commento di un salviniano: gli attuali standard di qualità non sono soddisfacenti, ha tuonato Marzio Luini della Lega, facendo eco al renzianissimo Rosato, che proprio non si dà pace che alla Camera, dove appunto vicepresidente, vengano calpestati così alti principi. Le politiche di contenimento dei costi dell'istituzione siano state perseguite nella più ampia condivisione tra le forze politiche, ma non si può cedere alla demagogia. Ha detto, suonando la carica, per rivendicare innanzitutto il diritto a condizioni di viaggio confortevoli, non trattandosi in questo caso di uno spreco, ma la giusta considerazione per la funzione parlamentare. E poi disfunzioni negli orari dei servizi di ristorazione e caffetteria, e i poveri onorevoli e i poveri deputati costretti a scendere al ristorante di sotto a prendere un caffè che, come raccontano, è una ciofeca. E il pezzo invece a pagina 4 del Messaggero è il pezzo con il quale il Messaggero apre il giornale, ed è il fatto che c'è 500.000 di persone che ancora non ha ricevuto la cassa integrazione. Aspettano 500.000 lavoratori che aspettano ancora gli aiuti Covid. Oltre 500.000, lo racconta Francesco Bisozzi, che appunto da mesi non ricevono i soldi della cassa integrazione. Più di 150.000 aspettano dall'INPS il versamento di una o più integrazioni salariali per Covid-19. Ma poi ci sono circa 400.000 dipendenti delle aziende artigiane che prendono però i soldi della cassa integrazione dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato, che però è all'asciutto da maggio. Il governo ha varato 375 milioni con il decreto agosto, ma i soldi stanno un po' faticando ad arrivare. Intanto le ore di cassa integrazione autorizzate dall'INPS nei primi 8 mesi dell'anno hanno superato quota 3 miliardi, in aumento dal 1000% rispetto all'intero 2019. L'INPS è in ritardo sul pagamento di 398.000, sono 400.000 integrazioni salariali per Covid-19. Considerato che spesso un lavoratore attende più mensilità, si stima una cifra di 150.000 lavoratori, i quali aspettano più di una mensilità, attenzione, quindi sono a secco da un po'. I lavoratori del turismo e della ristorazione sono tra i più colpiti dai ritardi. Per quanto riguarda bar e ristoranti, ci sono 16.000 lavoratori che hanno richiesto di accedere agli ammortizzatori e che aspettano di essere pagati. A 600.000 addetti la cassa integrazione è stata anticipata dalle aziende, che però in molti casi devono ancora rivalersi sulle casse pubbliche, e quindi a problema si somma problema, cioè il problema di quelli che non hanno la cassa integrazione, quelli che ce l'hanno, ai quali però è stata pagata dall'azienda, azienda che però a questo punto inizia a essere a secco di liquidità perché questi soldi della cassa integrazione non gli sono ancora tornati. Inoltre, per 40.000 piccoli esercizi che non hanno riaperto i battenti dopo il lockdown e che hanno dovuto fare perciò pieno ricorso la cassa integrazione, non basterà nemmeno la proroga di 18 settimane concessa dal decreto agosto, visto che a metà novembre le avranno esaurite, spiega al Messaggero Roberto Calugi, direttore generale di FIPE Confcommercio, che è la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Ed ecco com'è la situazione. Se volete segnalarci qualcosa dalla vostra azienda, siete proprietari anche di bar, ristoranti, di pubblici esercizi, o siete imprenditori, o siete semplicemente lavoratori che aspettano la cassa integrazione, beh, raccontatecelo, perché è un tema che abbiamo affrontato parecchie volte nella stagione precedente fino a luglio, e ci torniamo volentieri perché è una questione fondamentale. A chiudere questa prima parte, vi porto su questo, a proposito dei provvedimenti del governo. C'è il famoso decreto semplificazioni che aveva suscitato rilievi al Quirinale, però si ricomincia a dibattere della riforma soprattutto nella parte che riguarda il codice della strada. Ne abbiamo parlato molto qua di tutte le discussioni che c'erano sulle bici contromano, sulla regolamentazione per i monopattini elettrici e non solo. Ebbene, apprendiamo che all'interno di tutto questo, all'interno di questo decreto semplificazioni, c'è anche la possibilità per i comuni di far durare il giallo del semaforo 3 secondi. Li vogliamo contare? 1, 2, 3. Praticamente un modo per fare cassa, per permettere ai comuni di fare cassa. Tu passi col giallo, magari anche solo per errore, non perché vuoi bruciare il semaforo, ti ritrovi rosso e ti becchi la multa. Ebbene, almeno su questo, a quanto pare, ci racconta Alessio Ribaudo a pagina 29 del Corriere della Sera, si sta ragionando, ci saranno delle novità, delle modifiche, perché il testo è stato rinviato in commissione trasporti. A chiederlo è stato il relatore Diego De Lorenzis del Movimento 5 Stelle. Ci vogliono delle modifiche a tutti gli effetti, a partire da questa per il giallo che dura 3 secondi, e poi si discuterà anche delle multe per chi alla guida si distrae con cellulari o tablet. La multa andrebbe da 422 euro a 1697, poi chissà perché queste cifre è così, 422 1697, va bene, comunque con la sospensione della patente fino a 2 mesi, oltre alla decurtazione di 5 punti della patente. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo e parleremo parecchio di scuola, a tra poco. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Buongiorno, ma Suarez basta fargli rifare l'esame e si vede subito, no? Ma non aspettare 4 mesi, che così hai tempo per imparare. Artigiana iscritta al fondo Ebret, quindi all'ente bilaterale, i miei dipendenti hanno riscosso solo aprile, maggio, giugno, luglio e agosto non ce n'è traccia, addirittura l'ente in Toscana non risponde nemmeno al telefono. Dove sono installati i T-RED, il tempo del giallo è già di 3 secondi, controllate. Guardi, controllerò su questo, però vedo un po' di ascoltatori che mi scrivono, tra chi per esempio fa il camionista e mi dice ma come lo fermo il TIR in 3 secondi, e un altro che dice se ho dietro un TIR che cosa succede? Guardi, vedremo, ma pare che questa norma vada cambiata. Sui T-RED confesso la mia ignoranza, non lo so. Suarez, ma guarda che basta fargli un'intervista, qualcuno mandi un giornalista italiano a una conferenza stampa di Suarez e gli inizi a fare delle domande in italiano e vediamo come risponde. Se risponde decentemente in italiano vorrà dire che evidentemente questo esame l'ha passato, davvero non è tanto difficile. Sulla cassa integrazione ci voglio tornare e ci torneremo, perché è un grande tema e l'ascoltatrice ci ha raccontato, l'avete sentito, è gente che non riceve un'integrazione salariale da 4 mesi. Adesso non so se l'ascoltatrice poi l'abbia messi lei i soldi, se sia riuscita a metterli, perché magari non aveva liquidità per metterli, però 4 mesi senza integrazione salariale, questa è la condizione. Le 7:39, ricominciamo e ricominciamo direi dalla scuola, su tutta una serie di fronti. Il primo è la direttiva ministeriale, ve la ricordate, quella che, della quale avevamo anche discusso e che era stata salutata l'anno scorso come una vera e propria rivoluzione, racconta Ilaria Venturi a pagina 23 della Repubblica. il decreto scuola convertito a giugno scorso, che doveva entrare in vigore quest'anno e che aveva deciso di eliminare i voti in decimi dalle pagelle dei bambini della primaria, ossia delle elementari. E quindi già questo aveva scatenato una discussione. La discussione era: i bambini elementari hanno bisogno di un giudizio, non hanno bisogno di un voto in decimi, un 6, un 7, un 4, un 5, eccetera, eccetera. E dall'altra parte che dice: no, in realtà il voto ti consente di capire un attimo in che posizione ti trovi, eccetera, eccetera. Cosa succede però? Che in realtà questa riforma che doveva entra in vigore solamente a metà, racconta Ilaria Venturi. Cosa succede quindi? Da quest'anno ci sarà a metà anno la pagella con i voti e poi a fine anno la pagella solamente con i giudizi. A creare sconcerto è una nota ministeriale a firma del capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Marco Bruschi, dove si precisa che la norma attualmente nulla dispone per quanto concerne la valutazione intermedia, che resta dunque disciplinata con votazione in decimi. È un po' surreale se ci pensate, perché se tu decidi che si fa la valutazione non in decimi, non è che a metà anno la fai in decimi e a fine anno mi dici invece il giudizio complessivo sul bambino è questo e quest'altro. Ora è corsa contro il tempo e già si sono mossi i PD, 5 Stelle e Leo con emendamenti per rimediare. Intanto, entro fine ottobre, una commissione ministeriale dovrà dire alle scuole come applicare la nuova valutazione. Il mondo della scuola si ribella. Per esempio, viene intervistata Stefania Bassi, insegnante alla primaria dalla Chiesa a Roma, nell'equipe sull'innovazione del Lazio. Dice che ricorda ancora il giudizio della sua maestra, raccontava chi ero. Invece noi abbiamo dovuto ridurre un bambino a un numero, un'impresa. Alcuni anni fa con le colleghe si era inventata l'autopagella. Erano i bambini a prendersi l'impegno di migliorare. Vedremo cosa succederà su questo fronte. Non dubito che la cosa sarà modificata. Del resto il tempo c'è. Speriamo che venga impiegato correttamente. E però i problemi della scuola, come ben sapete, non finiscono qua. Innanzitutto perché c'è il Covid e in secondo luogo per il problema storico, quello della carenza di insegnanti. Carenza di insegnanti che potrebbe peggiorare dall'anno prossimo, stando a quanto ci racconta il Sole 24 Ore, che su questo tema apre il giornale e all'interno porta con sé un pezzo di Davide Colombo e Claudio Tucci, il quale ci racconta che sono attesi almeno 50.000 pensionamenti nel 2021. 50.000. Non sono solamente insegnanti, c'è anche il personale non docente. L'INPS ha certificato con esito positivo il diritto a pensione per circa 41.400 lavoratori del comparto, di cui circa 16.000 con i requisiti dell'anticipo quota 100. I primi di settembre sono stati liquidati 39.000 pensionamenti, pari a quasi il 95% degli aventi diritto. Pesa ovviamente, 41.400 sono le domande certificate nel 2020, 50.000 quelle che potrebbero arrivare l'anno prossimo, portando ovviamente la condizione della scuola, la condizione della scuola in una situazione ancora peggiore. Perché? Perché quest'anno su circa 85.000 autorizzazioni ad assumere professori sono rimaste vuote 66.000 cattedre che sono andate ad altrettanti supplenti, un numero elevato più degli altri anni. Settembre si chiuderà peraltro con oltre 130.000 incarichi a tempo determinato. La situazione è quella che è e chi ha figli a scuola ha perfettamente presente che cosa succede tra professori che non ci sono, professori che cambiano o che arrivano all'ultimo minuto, magari alla fine di settembre, all'inizio di ottobre o in alcuni casi non arrivano mai. Intanto la situazione della pandemia nelle scuole è questa e la racconta sempre il Sole 24 Ore, pagina 9. Sono state colpite 400 scuole e 75 sono state chiuse temporaneamente dal momento della riapertura. Serve 1 milione di tamponi al mese, racconta Marzio Bartoloni. Il tema qual è? Quello che abbiamo sottoposto sempre. Influenza o Covid? Per provare a rispondere alla domanda che attanaglierà sempre più famiglie alle prese con figli con febbre, tosse, mal di gola e congestione nasale, serviranno almeno 1 milione di tamponi al mese. Questa è la stima dei pediatri per garantire il rientro in sicurezza a scuola degli studenti quando a ottobre o novembre si entrerà in piena stagione influenzale, e distinguere il Covid dall'influenza non sarà affatto facile, visto che i sintomi sono molto simili. Il Covid è già in cima ai pensieri di molti genitori, visto che si moltiplicano i casi nelle scuole. Finora 417 quelle che avrebbero avuto almeno un caso di Covid con classi in quarantena, 45 i focolai registrati, 75 gli istituti chiusi anche solo per qualche giorno. Il tutto è frutto di un database messo a punto da un giovane ricercatore e uno studente universitario, Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino, che hanno raccolto dalla riapertura della scuola notizie e ordinanze dei sindaci. Da questa mappa emerge che i casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti. Però fatto sta che il rischio è che quest'anno vada molto molto a singhiozzo. Su Covid torneremo tra un attimo, dopo il traffico, su questo tema, ma la riapertura degli stadi, tra un attimo. Eccoci, la questione degli stadi, la riapertura degli stadi, ma ne possiamo discutere in questo momento, ragazzi, quando abbiamo la Francia qua accanto con 16.000 casi nella giornata di ieri, la Spagna con 10.000, la Gran Bretagna con 7.000, le terapie intensive che pur in maniera modesta si stanno riempendo con singoli casi, racconti di per il momento aneddotica ospedaliera, però pensate per esempio allo Spallanzani di Roma, ci sono 15 persone in terapia intensiva in questo momento per Covid, e i ricoverati sono oltre il centinaio, tanto per darvi un'idea. E tanto per darvi quest'idea, la Campania ha deciso di far mettere la mascherina anche all'aperto, il Lazio ci sta pensando, lo racconta oggi il Messaggero, tanto per dire. E però appunto le regioni stilano un protocollo per la riapertura degli stadi. Se la prende con queste regioni nel suo pezzo, nel suo commento quotidiano Fatti Chiari, Peter Gomez sul Fatto Quotidiano, a pagina 11, scrive: pubblico allo stadio, ma vale davvero la pena rischiare? Non bisogna essere degli esperti in pandemie per capire che un paese nel quale i contagi da coronavirus superano ormai abbondantemente i 1.500 al giorno non può riaprire nemmeno parzialmente gli stadi. Eppure il surreale dibattito prosegue da mesi e ora dalle parole si rischia di passare ai fatti. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è possibilista, il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri non dice apertamente di no e parla anzi di 25.000 spettatori all'Olimpico di Roma, la conferenza delle regioni è addirittura convinta, per i cosiddetti governatori, con eccezione di Nicola Zingaretti, riaprire si può e si deve, perché, spiega il ligure d'adozione Giovanni Toti, in Italia siamo in grado di garantire la sicurezza, puntando su una presenza limitata di pubblico e la massima prevenzione, ovvero le mascherine, il tutto per arrivare a un 25% di capienza totale. Scrive Gomez: rifletteteci un attimo, immaginate il derby Milan-Inter o Lazio-Roma. C'è davvero qualcuno in grado di credere che a ogni gol gli spettatori resteranno compostamente seduti ad applaudire? O che in caso di straordinaria rimonta di una delle squadre i tifosi della curva eviteranno di abbracciarsi? E se tutto questo non vi basta, pensate allora a un impianto sportivo standard con una quindicina di tornelli d'ingresso che nella maggior parte dei casi non sono automatici. Lo avete fatto? Bene. Ora pensate anche alle mani che si appoggiano sui tornelli a ogni passaggio, una dopo l'altra, a volte sporche, a volte sudate. Davvero si può ritenere che non rappresentino un rischio? Aggiungo io, pensate anche a tutta la parte dei trasporti, a come ci si arriva allo stadio. Vi lascio là la riflessione, magari invece c'è qualcuno di voi che pensa che sia giusto così. I giornali sono pieni dal punto di vista politico di due cose: il Movimento 5 Stelle e lo scontro interno al Movimento 5 Stelle che ieri si è manifestato con questa riunione alla quale i big non hanno partecipato. in quello che il manifesto definisce, in quelli che il manifesto definisce i primi passi verso il congresso, quasi una sorta di normalizzazione del movimento, di assimilazione ad un partito vero e proprio. Scrive il manifesto, e l'Assemblea dei parlamentari 5 Stelle rischia di saltare a causa di troppe assenze. Gran parte della delegazione al governo, in primis Luigi Di Maio, ha dato forfè a causa di una riunione con Conte sul 5G. Alcuni parlamentari annunciano che diserteranno l'incontro, ma alla fine partecipa anche il reggente Vito Crimi. E questo è il racconto della giornata di ieri. Una giornata di ieri che si compone, appunto, come raccontano molti giornali, di una via verso gli stati generali, che sarebbe appunto di fatto il congresso, anche se così, essendo il movimento quello che è, non si può chiamare. L'altro fronte politico è quello del centrodestra, e in particolare della Lega, sul quale fronte ci sono un paio di punti da segnalare, direi. Sono l'intervista innanzitutto a Luca Zaia a pagina 9 del Corriere della Sera, con un titolo di questo tipo. Il titolo di Marco Cremonesi, dell'intervista di Marco Cremonesi, è: Lega cresciuta molto, i voti vanno uniti a un consolidato progetto politico. E qua, come ben sapete, nonostante i boatos e tutte le cose che girano, Zaia non si fa incastrare in uno scontro con Salvini. I risultati della Lega sono un campanello d'allarme per Salvini, gli chiede Marco Cremonesi. Salvini sta facendo un lavoro strepitoso. Ha preso in mano un cadavere eccellente e lo ha portato nell'Olimpo, anche in Toscana. Se ci avessero fatto firmare qualche anno fa per il 40%, avremmo detto tutta la vita. La Lega è cresciuta molto e, come tutte le piante che sono cresciute rapidamente, ha bisogno di un palo, un supporto per poter continuare a crescere. La Lega è sempre stata eterogenea per estrazione sociale, culturale e politica, ma noi abbiamo una caratteristica, l'identità. Non dobbiamo perderne un millesimo, è quella che ci rende forti. La vera abilità è quella di miscelare la disponibilità temporanea al voto a una persona con un consolidato progetto politico. Nel concreto, una domanda: quando non ci sarà più Zaia, dovremo rinunciare a quel consenso o dobbiamo lavorare oggi perché resti? Ed è la domanda con la quale Zaia lascia un'intervista ampia, nella quale ovviamente parla di quello che è la sua grande battaglia, che è quella per l'autonomia. Il giornale, con un retroscena di Adalberto Signore, invece ci porta su quello che sostiene che stia succedendo all'interno della Lega, ossia le tensioni appunto intorno a Salvini e quest'idea di creare una segreteria, che cos'è? Di fatto una squadra di governo della Lega, per così dire, interna al partito, come c'è in altri partiti naturalmente. È una segreteria sulla quale però si addensa qualche dubbio, perché Salvini avrebbe intenzione, racconta Adalberto Signore sul giornale, magari una domandina su questo la faremo anche al leader leghista che sarà il nostro ospite alle 8.35, avrebbe intenzione di metterci dentro tutti uomini suoi, a lui molto vicini, dall'ex ministro Gianmarco Centinaio alla candidata sconfitta in Toscana Ceccardi, passando per il vice segretario della Lega Andrea Crippa, Alberto Bagnai, Edoardo Rixi, Claudio Durigon, alcuni anche di livello, racconta Signore, fanno presente gli scettici, ma tutti inesorabilmente dei signor sì di Matteo. D'altra parte, sarebbe impensabile trasformare con uno schioccar di dita un movimento one man show come la Lega in un partito complesso dove si confrontano idee e approcci diversi. Oh, ci sono molte cose anche sulle inchieste che riguardano la Lega. Le trovate, devo dire, un po' su tutti i giornali. La Stampa, pagina 7, ci parla della strana donazione al feudo emiliano, ossia questi 900.000 euro andati al comune di Bondeno, dove era sindaco Alan Fabbri, adesso sindaco di Ferrara, fedelissimo di Matteo Salvini. Questi 900.000 euro però poi sarebbero stati utilizzati, lo scrive poi nel pezzo Marco Grasso, nel pezzo sulla Stampa, sarebbero stati utilizzati per realizzare una scuola dopo il sisma. C'è tutta la vicenda Gregoretti, perché Matteo Salvini, oggi tra l'altro intervistato da Libero, dice: mi difendo in tribunale sulla vicenda di nave Gregoretti, racconta un po' i dettagli della sua memoria di difesa che ieri ha diffuso, e nel frattempo però Repubblica ci fa sapere che c'è un'altra procura che sta indagando sul momento nel quale era ministro dell'interno, sarebbe imputato anche, l'obiettivo è farlo essere imputato anche a Palermo, nuovo processo in vista con un ulteriore reato. sull'inchiesta in questo caso Open Arms. Come vedete, molta carne al fuoco, politica e non solo, anche per Matteo Salvini, col quale parleremo tra un attimo. Poi avremo ospite anche la sottosegretaria Sandra Zampa, la sottosegretaria della salute, per fare un punto su Covid. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra un attimo, come sempre, con il nostro appuntamento quotidiano con Paolo Mieli subito dopo il GR, e poi appunto alle 8.35 Salvini e poi Zampa tra poco. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.